Come mai l'editore pensava di fare il colpo con il titolo I sapori della terra di mezzo? Cioè, pensava di fare colpo sui fan di Tolkien e far credere che si parla delle ricette elfiche della terra di mezzo quella vera, non so. Che tra l'altro sarebbe stato anche interessante, tra l'altro che nessuno l'abbia scritto, con tutti i milioni di fan che ha in giro per il mondo, Sì, vero. che si studiano le lingue dei nai degli elfi, eccetera. Non so, Non lo so, cioè. o è semplicemente perché l'impatto così. Credo di sì, allora, il discorso è quello, allora, lui l'ha preso all'interno del libro, cioè io a un certo punto racconto di questo scrittore di Gevano che si chiama Angelo Ricci, che avevo sentito una volta che raccontava, no, dice la Lomellina è in fondo la Mesopotamia d'Italia, no? Io ho detto, ah, la Mesopotamia d'Italia, beh, la terra di mezzo, cioè questo è la cosa, e mi è capitato di scrivere nel libro, ecco. Poi l'editore ha deciso che quello era il titolo. Ecco, io intervengo molto poco nelle cose dei miei editori, io pubblico anche altre cose, scrivo anche narrativa, pubblico romanzi, con altri editori. E in generale io non metto mai becco nelle scelte editoriali, a condizione che loro non mettano mai becco nelle scelte autorali. Nel senso, io voglio essere libero di scrivere quello che mi pare, e anche di avere, di curarlo dal punto di vista editoriale in maniera corretta. Dopodiché la stessa libertà io la lascio all'editore, perché proprio credo che un libro abbia diversi attori, abbia diversi proprietari. Cioè, non è vero che il libro è di proprietà di chi lo scrive, è una grande stupidaggine questa. Cioè, io scrivo una storia e la do a un secondo soggetto, che è l'editore. L'editore fa diventare la storia un oggetto e lo mette in vendita. È una cosa diversa. Io ho scritto una cosa e lui ha trasformato questa cosa in un oggetto. Successivamente i lettori fanno di questo oggetto, con la mia storia, quello che gli pare. E devo dire che questo quello che gli pare è molto bello, perché nella mia attività, cioè, i libri mi hanno portato indietro tutta una serie di idee, di cose che le persone hanno pensato attorno a quello che tu avevi scritto, che io da solo non sarei mai riuscito a pensare, ma nemmeno mettendomi lì proprio con... no, cioè, c'è un po', quindi c'è questa interazione, questo modo, che credo tra l'altro sia una delle cose più belle dello scrivere, no? Cioè, è una comunicazione che diventa circolare, che parte in un modo e torna in un altro, no? Cioè, io mi sono figurato, io ho degli amici che mi hanno detto, hai scritto un libro leghista. Come ho detto, ho scritto un libro leghista? Ho detto, io ho scritto un libro che parla di un territorio dove disgraziatamente c'è la Lega, ma credo di averlo scritto dentro, proprio dentro questo libro, c'è scritto, cioè, che quello è un territorio, che questo è un territorio della gente che ci vive, e si può declinare in un certo modo anche senza gli urloni in camicia verde, si può farne a meno, ma ugualmente si può parlare. Cioè, non è che i territori non esistano, ma si possono guardare in un altro modo. Però mi piace, nel senso, ti interroga uno che dice, ma perché, per come, cioè, quello che ti riportano i libri, veramente, è la più grande ricchezza di fare, per me, questo.